50 domande su Gesù. San Giuseppe si sposò una seconda volta? Posto questo, le supposizioni che Giuseppe fosse alle sue seconde nozze o che vedovo e molto anziano non sposò Maria, ma si curò di lei come di una vergine in custodia, non sembrano avere alcun fondamento storico e nascono per spiegare che i fratelli di Gesù di cui si parla nei Vangeli sono figli di un precedente matrimonio di San Giuseppe. I primi accenni a questa ipotesi si trovano nel cosiddetto Protovangelo di Giacomo del secondo secolo. Si racconta che Maria rimase nel tempio dai 3 ai 12 anni, quando i sacerdoti scelsero per lei un custode. Riunirono tutti i vedovi del paese e dopo che in modo straordinario era volata via una colomba dal bastone di Giuseppe, gli affidarono la Vergine. Secondo questa leggenda, quando l'angelo apparve in sogno a Giuseppe, non gli dice: "Non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo", ma "non temere per questa fanciulla, quello infatti che è in lei proviene dallo Spirito Santo". Da questo apocrifo probabilmente dipende Sant'Epifanio, che sostiene che San Giuseppe aveva 80 anni e 6 figli, che avrebbero avuto tra i 40 e i 60 anni quando Gesù nacque e tra i 70 e i 90 quando iniziò la sua predicazione, e quindi è poco verosimile che fossero i suoi compagni di predicazione. In altri apocrifi successivi, come lo Pseudo Matteo, il libro della Natività di Maria, la storia di Giuseppe il falegname, si sostiene che si sposarono, ma in genere Giuseppe è presentato come il custode di Maria. Nella pietà popolare e nell'iconografia ha prevalso l'idea che Giuseppe fosse anziano quando sposò la Madonna. In sintesi, si può affermare che non ci sono dati storici che permettono di sostenere che San Giuseppe fosse già sposato, che fosse rimasto vedovo e che fosse anziano. Dai dati evangelici è invece plausibile pensare che fosse un uomo giovane e che si sposò solo una volta.